sono i watt, poi qua aumento la radio, no? E uscire, teniti lo sia, fottiti, te la usano normale, esce bene comunque, adesso lo stai usando, e lasciamo così, bella modulazione, teniti quello e radio, che fai alla grande, l'unica cosa che ti manca è l'antenna, no, non, manco qua va bene Antonio, manco qua. Antonio, allora, il discorso è che è già amplificato di suo, tu dai, attacchi un microfono amplificato e ti va di... E così... ma di che cosa? Ah, si può cambiare. Un bel costo, no? Buono. Allora, questo qua è verde del Typho, invece quello del trentino è rosso, va bene, lascio così. Questi sono futti, andiamo in vetta, interessante che funzioni. Va bene qualsiasi colore, interessante che funzioni bene. Però questo qua non è difettoso, è questo del Typho, però allora, la differenza dal 3009 a questo, che il 3009 c'era bello, questo qua è un po' stupido, cosa dei canali, il potenziometro dei canali, è un po' strano, non è detto, sembra che abbia sabbia in mezzo, non ne ho, me lo compro, ma ci riuscirò andare bene, di solito io in un potenziometro ne spruzzo una bomboletta, e allora, poi si misura a poco, e tu ridi, se la campo a vero, non ne ho usato di quelli, Anto, non ne ho mai usato. Andiamo, ma non ne fanno più, do casino, per carità. E Marco, tu cosa usi? Se la faccio il gaffè. E allora, cosa di palla azienda? Anche, ho caso di foca. Ce l'ho io, ce l'ho vasellina, su tutto. Olio Dante, olio extravergine, boh. Vabbè. E beh, buona la pasta ricotta a pranzo. E io voglio andare a gaghi. No, quello che ho fatto io, non la fai tanto. Io te mago patate. E tipo le pippette, le spaghetti. Spaghetti a ricotta, non ci va. E poveri siamo, va. E tutta la notte dormi, Anto. Guarda che io prendo magari sonno alle 11, 11 e mezza, mezzanotte. Molte volte mi sveglio anche alle 3 e mezza, alle 4. Piscià devi, Ma io lì, allora guarda, questo che c'ho, aspetta che abbasso un po' che se abbiamo questo soldo che battesse. Questa televisione fa 180 minuti, io l'ho imposto adesso dalle 10, no? E ci metto 180 minuti, non so, poi si spegne a luna di notte, ma io mi addormento prima. Allora mi fa questo, non so se lo fa tutti, io quando mangio, è sbagliato, mangiare, una volta che mangi, poi ovvio bevi, ci si riempie bene lo stomaco, mi sti goku subito, ed è sbagliato. E io una girata di occhi e mi addormento. Ma fa anche a te, ti fa addormentare una volta che è pranzato, che si vede pieno. No, io no. Quando andavo a fare pratti, no, mi riempivo abbastanza bene, dai. Poi a B, va, boh, se c'è la birra era meglio. Mica guidavo io. Questo è il vedo. Anche noi lo stesso quando facevamo fare 180, 160 chilometri. Ci fermiamo a berci una birra. Io che ta, dove abito una birra? Io, pompa direttamente a Sassari. Allora si filmava e si faceva buttarlo. Poi ci arrivava alle 9 a casa per dire, no? Arriva via alle 10 e più. Io pensiamo subito tanto. A me non si distende, io sono un acquirente, ti faccio vedere gli acquisti che ho fatto, ti spaventi, ma ne ha già fatto un bel avvero. Lo so, Anto, lo so. Nel caso, dovrebbe andare bene, nel caso non va bene te lo consigli per il tuo. Luca, uscendo bene sto? Adesso sì, perché questo qua è colore, Anto? Dai, stavo controllando lo spinotto, dai. Adesso dovrebbe andare bene. Gli ho rifatto le saldature, dai. Vabbè, ci sentiamo dopo, dai, vado a mangiare. Ciao. Io ho fatto carne in verde, ci ho messo l'alloro e agli altri. No, non ne ho olivero, non ho proprio rosmarino, sì. Alloro e rosmarino. Mi pare un po' goduta di sagare, carne di maiale, però... la noce è buona, del maiale, quella è tenera buona, veramente, mica se chi sa gare che tu la diri è, come si chiama, le fette che usano per fare il tiro elastico. No, fettine tu, sono te spalla, sono la, intanto tenero e la, la noce, no, fitto, se non ne mangi è meglio, anche io ci vado matto, ma anche io ci sto evitando, Guarda, io mi ho mangiato un po' di patatine, quelle in busta, quelle solite, là, quelle le prendo all'Eurospin, quelle al coso, a paprika. Ma manco io me le compro così, magari non so cosa mangiare, mi faccio una merenda con quelle patatine, magari c'ho qualche birretta. Cioè così e di non mi guvira nulla, zero, manca ciclo, niente, finito. No, e ogni volta soldi, c'è l'entrata, va bene, ma vedi, oggi ho guadagnato 20 euro, tu. Oggi 20 euro, ieri 50. Alla fine i soldi come entrano ci escono. E infatti, arriva, quanti gli si hanno avuto 15 milioni di euro in contanti? Chi è avanti? C'era qualcosa, sto di te. Sì, 15.000 euro in contanti dentro questi cartoni e messi dentro questo muro, pensa a due, si avviene tutto dai carabinieri, la polizia. Sono massette da 500 euro, tanto, mamma mia, com'è sta. Ehi, la saluto anche a Micheluzzo, ciao Michelu. Ciao Anto, da, anch'io mi sposto, da. Sono gubura a tuntunato e mi voglio riposare. Beh, la iatta, Anto, io mi è pronta, avevamo a pezzi, ma la ridda è in forro. Oh, in verde. Ehi, aspettando. Ciao, fammi sapere, ciao. E beh. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola. Hola, 1, 2, 3, prova. Oh, ma. Che è? Parla un attimo. Hola. 1, 2, 3, prova. Hola. Hola. 1. Hola. Hola. Perché? Ehi, Natalino Alfa 1, dai. Ciao Natalino, buonasera. Ciao Fra. Scusate, ma anche noi dobbiamo andare. Arrivederci. No, buonasera. Ma come tutti quanti dobbiamo andare? Oh, signore. La festa è incredibile, questa volta l'ho incontrato proprio qui, che strana coincidenza. No, ecco, appunto, è una coincidenza. Non è colpa mia se la giornalista è stata... Attento. Sì, attenta. Se la giornalista è la fidanzata del commissario, eh? No, l'ho incontrato per la stessa Marinetti. Se non se ne è parlato, è incontrato, il luogo, quello verso di America. Bene, ti sto arrivando lì. Sì, benissimo Fra. Certo, stavo controllando l'analizzatore di spettro al computer, però non riesce a far funzionare la situazione. Vabbè, dai. Come mai? Vabbè, mi serve uno spinotto TV. Il fatto suo magari ci vuole. E il suo è uno spinotto TV. Mi serve uno di quelli per fare uno spettone e attaccare questa antenna qua. Ah, capo, comprendio. Però passaggio tra 9:10 sta arrivando qua. Ehi, cosa vuoi? 3 watt sta dando. Già rende questo di polo, già. Tu mi stai arrivando benissimo. Fai un passaggio che guardo il segnale. Questo è. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ehi, 9:10 lo stesso. Kappa, andare. Ciao Lucaria, buonasera, che bello. Ma senti, vengo a capire. Senti qua la vita mia che... Ah, Fra, non è che c'hai un baracchino di quelli che non usi, che mi serve, mi serve con lo smitter, però che abbia lo smitter normale. Io ne ho uno nuovo. E in prestito mi serve un baracchino, che abbia lo smitter mi serve. Che devo farmi il collegamento alla macchina, che già c'ho tutto per farmi il collegamento, l'ho già messo in una valigetta pronto a piazzare. E mi serve un baracchino per provare che non ne ho io. Cara cara, non problema. E non mi serve per... mi serve solo perché il mio, quello che ho io, l'ho omologato, oltre che non serve a un cazzo, praticamente c'ha lo smitter a coso, a LED, quindi con i trattini. No, io ne ho uno, 34 canali, con lo smitter nuovo ancora dentro la scatola. Che bello. Comprendi, che bello. E bello, carie. Beh, fra, tutto veloce. Cata, mi stai arrivando a fondo schiena, mi stai arrivando. 9:40 mi stai arrivando. Ti senti attaccati, by foot. Vabbè, con l'antennino non gli è arrivato così forte a Duca, eh. E ma adesso con questo di pollo, con questo pollo, vedi che cammina. E la radio è sempre buona, Natalia. Buonissima, va bene. Mi chiedi a Luca. Lugariè, com'è questa radio? Va bene, io sto parlando a voce bassa, se non faccio casino qua. Tutto bene, bene, la passata prima ti mando dei messaggi, arrivo subito. Che beh, e se no passo la cosa, poco recco. Quando fai così ti temo, fra. Ma ti potete dire l'ecco, no, con una passata di granita. Adentro Natalino Alfa 1, se ascolti questa piccola modulazione della città di Sassari, cambio. Sì, già si sente. E l'ho messo al minimo, cambio. Guarda adesso se ascolti ancora, capo. Binario 10! Aspetta che forse c'è Riccardino che vuole entrare. Ma davvero, Natalì? Come? Natale! Ehi, dimmi! Ti sto salutando! Ehi, buonasera, buonasera! E beh, contento sì di quella roba! Non si è arrivato, c'è qualcuno che mette la portante. Sì. Mi copi? Già ti ascolto. Tutto bene, va bene il decoro. Provato l'hai? Bisogna ancora attivare la carta, non abbiamo avuto tempo. Sono andato a mangiare la pizza, due pizze, e mi dovevano dare il Guinness World Record. Cava cava. Sono tutti scappati? No, io sono qui, c'è anche Franco. Franco, lo senti tu a Riccardino? Ciao Riccardino, buonasera, ben ascoltato qua. Capo. Non so se mi ascolti tu lì, cambio. Ma ciao Franco. Sì, me lo tolgo l'eco perché non mi piace a me. Io c'è anche Luca, però stavo facendo un qualcosa, non mi ricordo cosa stava facendo, adesso già viene subito. Non è entrato ancora? Riccardino, ma mi ascolti? Già ti ascolto. Ma mi ascolti lì a quella zona? Va benissimo, a bomba. Vabbè, a bomba, già va bene. Non è fortissimo, ma va bene. Non posso aumentare, sennò qua saltano i televisori. Un telefono, quando inizia a fare radio mi chiamano sempre al telefono. Vabbè, mandali a fanguarla. Riccardino è la mascotte della 27. Mi piace la radio. Bravo Eto. Io stamattina l'ho conosciuto, a lui e al padre. Eia. Kappa, mi sa che il padre era un vecchio CB. Eia, sì, era un vecchio CB. Addirittura il padre stava in questa via dove abito io. Ah, ho capito, sì. Quindi tutto Kappa, tutto a posto. Fra un po' c'ero io, ancora non è pronto. Dopo andiamo a metterci qualcosa, a mandicare, come dico. No, io ho già mangiato, vero, la televisione accesa, brava, quando abbiamo un po' di TV, da tanto se non senti più la TV che a me. Io l'avrei sentito, mi sono mangiato due pizze e stavo esplodendo, guarda. No, non sento più la pancia, quasi quasi, mi sta per uscire fuori la pizza. Vabbè dai, io faccio QRT, ciao Riccardi, io passo in QRT e mi guardo un po' di TV, perché mia moglie ha acceso la TV e se non sentite più la TV è a me. Ciao a tutti, anche a quelli che sono in ascolto, ciao. Natale! Sono ascolto, per me QRT è già la risolta di Bruxelles, ciao Franco e ciao Natalino, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti, aspetto che entri qualcuno. E Luca dovrebbe tornare a momenti. Ciao Riccardi, buonanotte, buon tutto. Ciao Natalino, saluta Concetta che mi ha mandato un messaggio. Eia, Conce, saluti da Riccardino. Grazie, ti ha sentito, tranquilla. Ciao Riccardino. Ciao. Dimmi subito tu con RZ. Tutti a mangiare e anche a guardare la TV. Andando il radiale di Mantova. Sta andando bene qui. Zona Flighedu. Un radiale di Mantova già sta andando bene. Quadrato, cerchio, triangolo, lo so che ci sei. Non c'è nessuno. Hola, attento alle 10. Ciao alle 10, binario 10, ciao Roberto. No, binario non ne conosco. È una stazione. Aspetta che c'è il volume troppo basso, chi c'è qua su questo canale? Anche. Di nuovo lo stesso errore, ti ha mangiato la parola Riccardo. C'è Emanuele Ginco. E dov'è? Avanti Emanuele. Sì, ciao, ben sentito. Non ti sento fortissimo, segnale 7, radio 3 per niente al 4. L'altro giorno si ascoltavo fortissimo, non so se eri da un'altra parte, perché anche avanti ieri o quando ti ho sentito basso, ho detto che è strano, l'ascoltavo forte. Ma eri a casa di Torino allora? Ah, ok, poi chi c'è Riccardo su questo canale? Tutti scappati. Tutti fuggiti a mangiare, no, io ho già mangiato. Ebbene Rubison. Ebbene Lucariello. Io sto facendo radio, mi faccio l'appunto la mamma, poi mi si gommo. Aspetta dove mi chiama la mia ragazza, da sempre puntuale, a 9:30 tutti i giorni, una volta al giorno, così. E per forza. Dico, solo una volta la fai. Tutti i giorni, Robert. No, già lo so tutti i giorni, ma dico, solo la sera, non la fai la mattina. No, no, stamattina prendo la pastiglia. Eia. Ma non esiste la possibilità di prendere la pastiglia, finché tutta questa cosa qua, complicazione. Sì, la pastiglia, allora, prima ne facevo a 4, nessuno, adesso ne fa una, la notte è obbligatoria, perché è lenta, capito? È una medicina lenta, ricopre tutta la notte. Mi fa venire sono lenta poi. Beh, vedi tu. Mamma mia, che cose brutte, sono il diabete. Io c'avevo mia nonna così, mamma mia. Ma ero piccolino, ma cazzo, sono cose brutte. Meno male adesso esistono delle cure che sono meno pesanti, ma mia nonna cacca mi bagno da 2 o 3 di punture. E poi con quelle siringhe tipo quelle che usano i tuoi, se ci mi. Invece queste qua sono piccole, gli aghi e sotto cutter. Sì, già lo so, ma anche un'amica mia l'ho preso al padre, nella pancia, gliele faceva queste piccoline. Sì, sì, fa. Vediamo la cosa ce l'ha fatta. Aspetta un po'. Andava, riprende. Sì, vai Riccardo, cuore di leopardo. Se vedi quel radio Marelli in funzione, è troppo bello. Allora, così questa radio, non ho capito. Questo è un ritardo di un secondo, 2 secondi. Allora, sai cos'è il problema? Quando tutti noi schiacciamo il coso, il PTT prende un respiro al palle, Riccardino respira nel bigliapa, come schiaccia a palla, e non intervengono il relè della radio, per cui c'è una frazione di secondo in anticipo. Ma perché? Allora, quel tipo di apparecchi, magari rispetto al baracchino, sono un po' più lenti, perché c'è un circuito un pochettino più complicato, dai, con diverse cose. Quando tu schiacci, prima di attivare il relè per parlare, per trasmettere, ci piega una frazione di secondo, però Riccardino, come schiaccia, lui sta già parlando, non dà il tempo di relè di attivarsi. Ma non è mai tipo della radio? Sono tutte così queste radio, questo sistema, queste più evolute hanno questo sistema qua di commutazione, un pochettino più lenta, diciamo, rispetto al baracchino normale. Ma la tua non lo fa. Ma io non parlo immediatamente, io do una frazione di secondo, io schiaccio e poi parlo. Mentre Riccardi non parla prima di schiacciare, è troppo veloce. Ma Riccardi, tu schiacci la portante, un secondo, due secondi e poi parli. Faccio così, te parlo subito, sì. Prendi un respiro, fai schiacci, prendi il respiro e parli. Ok, adesso ho preso il respiro e posso parlare, va bene, così. Comunque, Robè, ho detto, sta andando bene questa Radio Marelli. Lo so, sono belle radio, io Radio Marelli ho quelle vecchie vecchie antiche, e ne ho una piccolina pure da cucina, dai. Però quella mi sembra, no, ma pure lo stesso è quella che ho. C'ho quelle vecchie vecchie, molto più vecchie di quelle degli anni 50, quelle in legno, non so, quelle che si usavano una volta a casa, funzionava molto bene. Poi quelle a valvole, io come se fosse a transistor, figurati Riccardi con la radio, per cui è fine anni 60, inizio anni 70 quella lì, perché i transistor sono venuti subito dopo, negli anni 70. E le casse si sentono bene. Una bomba sono. Comunque, se vedi, Babbo l'ha aperta dentro, un gioiello, non aveva nessun problema, solo un pochino di polvere e nient'altro. Ma gli avete messo un pezzo di filo per fare l'antenna? Già, c'era già il filo. Ma dove te l'hai portata? In camera? Sì, e torno, mi sento tutto un... Aspetta, Riccardi. Ok, ha fatto scattare il relè e sì, comunque me le sono messe in camera. Non fare sordi a tua sorella, non farla sorda. No, neanche, non si azzarda. Cacchio, è più forte di te, Riccardi. Piano, tu schiacci il PTT, un secondo e parli. Ma un secondo dal momento che schiacci il PTT, non un secondo senza parlare. C'è anche Manuele, nipote di coso, di Tonino. L'ascolti tu, Luca? Stai parlando con me? Prima ho parlato con te e non hai risposto. Ho parlato con Luca, non risponde. Ha ragione, col muro sto parlando. Che è arrivata mamma e stava parlando con me e non ho capito, ho ascoltato a lei. Ah, non c'è problema, non ti preoccupare. Ho detto, sempre quel caso di schiacciare troppo veloce. Se, già, ogni passaggio che faccio lo sento sempre. Tu e ti mangi un pezzo di parola. Forte di me, cosa ci posso fare? Forte di me, non si sente, è più forte di me, si sente, più forte di me. È più forte di me, come faccio? Cioè, fai una cosa, non parlare, schiaccia solo la portata. No, però stai ascoltando anche un'altra cosa, se c'era qualche altro problema, ma è tutto a posto, non è, ho provato a capire se c'è un'interruzione, come schiacciare il PTT, e poi, secondo me il PTT, tu ti metti troppo lontano, mettiti fronte al microfono, lo schiacci bene, perché magari solo inclini non proprio bene, non fa contatto bene. Cosa? Ho ravvato, di nuovo lo stesso problema, America. Mamma mia, mamma mia. Allora non è questione di radio, qua è questione che sei tu, allora che sei. Ma stai usando il blocco? Sto usando il Midland Alan 43 con un microfono da tavolo Turner T2. Ho detto, se stai usando il look del microfono? Sto usando il PTT. Ti fa questo, tutto un... Cioè, quando schiacci portante normale e non parli è tutto perfetto. Come parli ti prende quella frazione di secondo e ti taglia un pezzo della modulazione. Anche adesso me lo sta tagliando, ti aspetto un secondo. Adesso hai aspettato un secondo tu. Sì, ho aspettato un secondo prima di parlare. Non lo so, fa questo tu, si sente uno scattino. La voce non te l'ha mangiata, però sento uno scattino quando parli. Boh, non lo so. No, già lo sento che quando clicco il PTT fa un click. Cosa del genere. Ma il livello del microfono sempre a 2 l'hai tenuto? Il microfono è a 3. E perché lo metti a 3 se era a 2 prima? Ti ho detto che a 3 andava bene. Non era a 2 la regolazione che abbiamo fatto. Sono segnate, avevi detto 3, va bene. No, ma c'è qualcosa che non quadra, no, lo sta facendo. Adesso se tu stai lasciando una frazione di secondo, ti staglia un pezzettino della modulazione, non capisco come mai. Sembra molto ritardato l'inserimento del PTT. Cosa dirti, Roberto? Tu capisco che hai detto, non so cosa dirti, aspetta solo, cosa dirti? Non so cosa dirti, adesso me l'ha mangiata? Ti fa un saltino. Allora, l'inizio solo ti taglia un pezzettino, poi come parli continuo va tutto bene. Una cosa, un difetto mai visto. Io pensavo forse perché parli troppo veloce, invece non è così. No, ma forse è questa radio, perché nell'altra me lo faceva, non penso, nel trio. Non lo so, ma che non sia questo l'alimentazione che sta prendendo per darla al coso, al Tanner, che magari è un po' ritardata per quello, la commutazione dell'alimentazione della modulazione, se mai ti dà quel ritardino. Vabbè, dai, continua a parlare, non c'è problema. Ok, vediamo se c'è ancora, come si chiama, Ginko giù dalla veloce. Avanti Ginko, se mi ascolti naturalmente. Eia. Vai Riccardo. Va bene. Questo problema sarà da risolvere, glielo dirò a Fabrico. No, non è niente di importante, già ci capiamo, tu ci mancherebbe, però se siete tu, come parli un pezzettino te la tagli. Il primo, proprio la prima parola che dici fa tutta la taglia a pezzettini. Prova a metterla a due per curiosità. Così forse va meglio? Prova a parlare. Uno, due, tre, prova le tre prova radio. Sembra un po' meglio, però te l'ha fatto dopo adesso, il tuc, questa specie di disturbo. Magari la caratteristica di quella radio con quel microfono, cosa vuoi ti dica Riccardo? Non c'è la controprova col coso, con l'MC60, no? Quando è che sono sceso giù, avanti ieri? Bisogna fare la prova con se dipende dal microfono o da che cosa, vabbè, quando capita già lo scendo giù. Ok, vediamo un po' se su 10 c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprendi tu Riccardo oppure Ginko. Luca, scusate. Cosa è? Se non sbaglio, non c'era anche Luca? E Luca è andato a fare la puntura alla mamma. Ah, va bene. C'era sicuramente qualcuno in ascolto, solo che non vuole entrare. Ora se ce ne sarà più di uno. Fabio, che ne sono? Le vetture, vabbè, Fabio entrava sempre un po' più tardi, dai. Non ho sentito a cosa, a doppio room, e tutta la combricola, che quelli che ci sono sempre, Tonino, oggi non ci sono. Sì, prima, quando stavo andando in pizzeria ho sentito Tonino, doppio room, dollaro, natalino e altri. Ma non è venuto da te oggi, Fabio? No, non è venuto, infatti ha detto alle 4 mi ti chiamo che vengo, poi non è venuto. E magari ha avuto qualche imprevisto, dai. Già sistemerà tutto, dai. Ok, cosa volevo dire? Boh, riprendi tu, come si chiama, Manuela? Boh, ma tu hai già cenato, Rita? In pizzeria da Bruno, non so se lo conosci. Certo che lo conosco, Piazza Colonna Mariana, sono buone le pizze. Siamo andati, vabbè, molto amico di Bruno e del figlio di Massimiliano. Sì, Massimo lo conosco da quando erano ragazzini. Se lo vedevi prima, adesso è magro, hai visto? Ma prima era bello massiccio. Scusa Massimo, sì, già l'ho visto, ci stava parlando Babbo. E come lo conosce tuo Babbo a Bruno? Praticamente Babbo ha due fratelli che abitano tutti qui in campagna, siamo in tre. Tre fratelli sono. Quindi il figlio di Bruno andava a scuola con Gianfranco, il fratello di Babbo, il più piccolo, e così praticamente ha conosciuto a Massimo e veniva ogni volta a casa, e così poi ha conosciuto anche il padre. Ho capito, Bruno è uno di quei pizzaioli storici, lui, Belloni che è morto, e Coso, e Franco della pizzeria Il Pizzicotto all'Impunti, sono i tre pizzaioli storici di Sassari, hanno tutti e tre iniziato a fare le pizze come pizzaioli al Gallo d'Oro, e poi hanno fatto l'attività, sono i più bravi pizzaioli di Sassari. E lo so che sono molto bravi, è buona la pizza. Soprattutto la pasta, io parlo come impasto, poi magari tutto può dipendere da cosa ci metti come componenti, come prodotti, perché c'è modo di fare economia, anziché le melanzane comprarle fatte le tue, puoi comprarle già pronte, precotte, è diverso, come mangiare una merendina rispetto a una pasta fresca, la stessa cosa. Se uno fa la pasta buona, poi non mette il coso, i prodotti freschi, per dire melanzane, la salsiccia, i peperoni, eccetera, ci sono quelli che prendono e buttano sopra, oppure vicino dice perché ci sono quelli che mettono componenti buoni e poi la pasta non la sanno fare. Io lo so che fanno una buona pasta, anch'io parlo a livello di pasta, perché tipo mamma gli viene un mal di stomaco forte quando mangia una pasta che non è preparata bene, invece quando andiamo da Bruno non gli fa mai niente perché ha fatto un buon impasto. Sì, la lievitazione conta tanto, la qualità del lievito eccetera, sono cose che influiscono, poi se usi cose conservate, se la metti in freezer l'impasto anziché riesci a lasciarla lievitare normalmente con i tempi suoi, ci sono tante porcherie, anche a me qualche volta mi capita, secondo me vai, ma le ho tutte cancellate con le pizzerie diciamo da battaglia, dai. Vado quando mangio la pizza, vado dove dico io, almeno sono sicuro che la pizza è buona, anche il coso è buona, la fa ottima la pasta, è quella che c'è in corso in via Italia, il muflone è un grande, la pasta è ottima, poi come qualità dei componenti la migliore, diciamo una delle migliori, non dico la migliore, non si dice una delle migliori, è quella del pizzicotto il sabato quando c'è lui, Franco, che le fa lui le pizze, ci mette i funghi fatti da lui, i trifolati, le melanzane, tutta roba fresca, no? Presa da barattoli. No, so che ci sono anche quelli portazioni che non ne fanno bene l'impasto. Un giorno eravamo andati, non per criticare, però dico, alla Perla Nera, praticamente in Viale San Francesco, vicino a nonna, avevamo ordinato, visto che nonna abita da quelle parti, scusa, e praticamente siamo andati, tipo, mi sono mangiato la pizza, di un male, sono stato due giorni. Come te l'hai presa male con la panna? No, non con la panna, una normale, margherita con patatine. E ti ha fatto male addirittura senza avere ingredienti strani? Infatti non ci siamo più andati lì. Bisogna stare attenti molte volte, dai. Ok, noi abbiamo messo tante cruci in tante pizzerie che diciamo non servivano, ma si va a provare, ogni tanto si va. Ok, vediamo un pochettino se Emanuele c'è ancora, se mi sente naturalmente. Avanti Emanuele, nulla, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare su 10, nulla, riprenditela tu Riccardo. Tu invece non hai ancora ordinato pizza questa settimana? Allora, ho mangiato la pizza sabato io, e poco fa mi ho preso due pizzette mie al volo per mangiarle, avanti ieri mi ho fatto uno di quei panini capriccio, non so se lo conosco. Sì, già conosco, li mangiavo praticamente quando uscivo a scuola, che dovevo rimanere in ufficio tutto il giorno da babbo perché andavo a Siri, ancora adesso, vabbè, e praticamente comprava dei panini alla Conad, che c'era il capriccio, quella con la cotoletta, e già me li mangiavo un po'. Capriccio ci credo poco, perché capriccio deve essere caldo perché c'è il coso, il formaggio, lo speck, eccetera, però avete caprese tu parli. No, che te lo scaldavano poi, lo scaldavamo, infatti era in un posto caldo, non era in frigo, no, capriccio. E erano già buono, li fa Renato, il primo è stato Renato che li ha portati, e poi c'è il fratello in via Coso, in via Napoli, Roberto li fa uguale a lui, sono i migliori i capricci, perché loro mettono, hanno la ricetta con lo speck, eccetera, e usano tutto il prosciutto. Non parlo di Renato, Roberto, mica viene la fame, l'ultima volta che sono andato, no, delizia, ci vado tutte le volte con i miei compagni, quando esco qualche volta, e vado sempre a lui, i panini, quelli i più famosi sono, mi sembra tipo l'Ambove, però io non l'ho ancora provato, quello mi prendo sempre il Tyson, una bomba. Poi c'ha quel panino da 2,5 kg, quelli super capriccio, VHS che sono a 4 strati, dai. No, io prendo, quando vado normalmente prendo il capriccio o cheeseburger, dai, niente di complicato, sopra con le uova no, non li prendo mai, sono pesanti, e poi le uova bisogna stare molto attenti quando le prendi, perché se non sono fresche è un problema. Ok, vediamo di nuovo sul 10 se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprenditi la microfonia tu. Le uova fanno trodiare. Cosa hai detto lui? Ho detto che le uova fanno trodiare. Anche la Faene non scherzo. Sì, la Faene, io divento un carro armato col mitragliatore. Ma tu le pizze dove le prendi? Di lì vicino a te? Da cosa? Daniel? Da Nannis, oppure da via Gazzelletta, lì da San Vito, da Prima Lunga. Obelix. Sì, no, ci sono andato tante volte. Le idee sono buone, dai, già si possono mangiare. Quella di coso, come si chiama? Io lo chiamo Daniel, invece si chiama, aiutami, non mi viene il nome. Allora, fate dolce. No, quello che hai detto tu, io lo chiamo Dannis, invece si chiama, aiuto. Nannis Pizza. Lo chiamo Dannis, figurati, no, qualche volta l'ho preso, mia figlia l'ha visto andare in Kiwi, no, adesso vado sempre da altre parti, dai, più comodo. Dannis Pizza è lì a Santa Maria di Pisa. Sto andando adesso. Luca, ma tu non sei mai andato ancora da Bruno? Che mi ricordi io o no? Forna legna. Mi sembra Roberto. Certo, quel pizzaio li usano solo forno a legna, è uno di quelli storici. Lui, come ho detto io, lui coso, Franco e ex Belloni sono i tre pizzaioli storici di Sassari. E la piazza con una Mariana, Luca, penso ci sei andato qualche volta. Sì, sì, no, vabbè, non mi ricordo, perché mi ricordi io o no? Comunque è brutta la radio di Riccardi, non è molto brutta. Sa, con lo scatto come parla, il primo pezzettino gliela taglia, probabilmente secondo me il microfono. L'altro giorno quando ci avevamo il 60 lo faceva Luca. No. E allora il problema è con l'interfaccia col tanne. Secondo me sta leggermente saturando all'ingresso, come lì arriva la tensione, fa saturazione. E poi tu si co. Mettila uno per curiosità, Riccardi. Adesso la microfonia è a 1. Riprova a parlare. 1, 2, 3, prova a parlare. Adesso la microfonia è a 1. E fate cancellare subito. Metti a 1,5, Riccardo. Adesso la microfonia è a 1,5. Dimmi una cosa, il microfono, l'amplificazione del microfono, quella sul microfono, a quanto è? Il microfono è a 1,5. No, ma tu qua stai toccando, quello dell'apparato o quello del microfono? Sto toccando quello del microfono. Scusa un attimino, tu c'hai due regolatori, uno sul microfono e uno sull'apparato. Cos'è che hai abbassato, quello dell'apparato o quello del microfono? Ho abbassato quello del microfono. L'hai abbassato, perché quando ce l'avevi quello del microfono? Come hai detto, a uno stavo provando, devo provare quello dell'apparato ad uno. Certo, l'uno è troppo basso il microfono. Ma scusa, non era a 7 quello del microfono, mi hai detto che era a 7 e l'altro era a 1,5, 2, ce l'avevi quello della radio. Adesso provo, adesso quello della radio è praticamente a 1. E quello del coso a quanto è il microfono? Il microfono è a 3, l'ho sollevato un po' perché ho abbassato. E che cacchio, cioè tu non devi, cioè abbassi uno e lanci l'altro, aspetta, rimetti tutto da qua, rimetti tutto come di prima, quanto era? 2 e il microfono quanto era? Il microfono a 2, il microfono da tavolo, la regolazione è a 2. Il mixgain è a 1 e il car è a 4. Allora, solleva appena appena il microfono, il mixgain dell'apparato. Ho sollevato il mixgain dell'apparato adesso. No, lo sta ancora facendo il difetto. Allora, prova, fai l'ultima prova, solleva il mixgain, a quanto c'è il mixgain dell'apparato? Nell'apparato è a 1.30. 1.30, c'è uno parte da 0, 1 o 2, parlo di 1.3, tra l'1 e il 2, e qui c'è 1,5, non 1.3. Riccardi, allora fai una cosa, metti il 2 quello dell'apparato e abbassa quello del microfono. Adesso quello del microfono è a 1 e il mixgain è a 2. Questo tum, questo scattino qua, prova a parlare tu Luca per vedere la differenza di radio. 1, 2, 3, 30, 40, 50, guarda un po'. Vai Riccardi. 1, 2, 3, prova, 4, 5, 7, 9. Ma quanto sei lontano dal microfono Riccardi? Sei seduto bene come ti ho detto io in direzione del microfono? Perché c'è dei cambiamenti di modulazione, per dire, da alta a bassa, tantissimo cambio. Io praticamente sono attaccato così al microfono a 30 cm, un palmo dal microfono, sono della, sto guardando in faccia il microfono. Va bene, allora alza un pochettino il livello del microfono, dal microfono alza. Metta 2 o 3? 2 o 3? Parla, vabbè. Adesso la microfonia è a 2, 1, 2, 3, prova radio. Aspetta un secondino. 1, 2, 3, prova, 3, prova radio. Scusate, mi sono toccato la qua. 1, 2, 3, prova, come sta andando? Sì, però ti fa questo scattino di ritardo leggermente. Non so, secondo me il problema è il microfono. Quindi tu adesso quando sei il microfono, il livello del microfono sul microfono? Il livello del microfono è a 2. E quello della radio? Il mixgain della radio è a 2 e il car è a 4. Il car non c'entra niente, il car è della potenza, non c'entra nulla. Quello lì, sto parlando del microfono. Allora, la radio ha detto che è a 2 tu. il microfono della radio è a 2 e il microfono è a 2. Abbassa appena appena il coso, il microfono della radio, però poco poco. L'ho abbassato un pochino adesso. Prova a parlare. 1, 2, 3 prova e 3 prova radio. Potete mettere in questa posizione, però ti abbassi un po' la radio, non è fortissima. Prova a alzare un po' la radio, il microfono, il livello del microfono dal microfono. 3 prova e 3 prova radio, adesso il livello microfonico è a 6. Prova a parlare. 2, 3 prova e 3 prova radio. No, però fa il difetto. Per non sentire quel difetto ti devi abbassare molto di radio. Sicuramente c'è un problema di impedenza che ti taglia come attacchi, tink, si sente difettuccio. Dai, ma non è niente di preoccupante, di rimari. Questo è quello che è stata messa la resistenza, quello lì è. È stata messa una resistenza, boh, non lo so. Questa è stata messa una resistenza. Boh, non lo so. Di che? Quello di Claudio è questo. Sì. E allora lo vedi che qua è stata data tale impedenza. Ti dovrebbe male fare delle prove. Comunque, dai, non ti preoccupare, dai, già si sistema. Allora tu adesso la radio ce l'hai a 2 e c'è il microfono del coso. Il guadagno del microfono sul microfono. Scusa Roberto, non ti ho capito. Il volume, il potenziometro del mic gain del microfono. A che livello ce l'hai e a che livello c'è quello del mic gain della radio? Quello microfonico del Turner è a 6 e invece il livello della radio è a 1,5. Mettila a 2, solo per togliermi un dubbio, quello della radio. Il mic gain della radio è a 2, 1, 2, 3 prova. Nulla, stai innescando, abbassa quello della radio. Tre prova radio, adesso il mic gain della radio è a 1. Quello del coso è a 6, hai detto. Il livello microfonico è a 6. E a quanto arriva come massimo? Il microfono a quanto arriva? Il microfono. Il microfono arriva fino a 20. A 20? Cioè, quindi tu quando sei a 6 cos'è? Non sei neanche a metà qui? Non sono ma neanche a metà. Prova a sollevare un pochettino, vai verso la metà. Il livello microfonico è a 10. Parla. 3 prova e 3 prova radio. Vediamo adesso come sta andando. Come vedete il livello microfonico è a 10. Non parlare. Stai restando. Torna indietro. Quanto sei adesso? 10 sempre. Non è che l'alimentatore. No, cazzo, ti ho detto abbassare. Tu metti a 10, ti ho detto stai restando, devi abbassare, così. Ho riportato a 6, cosa lo metto? Ad 8 il livello microfonico, lo lascio a 6. Stai fischiando, stai innescando, abbassa ancora. Il livello microfonico è a 3. Lascialo così, non toccare niente. Sì, per fare delle regolazioni bisogna cambiare leggermente l'impedenza, ma lascia stare, sarebbe troppo complicato. Dai, non ti preoccupare, lì si mette un microfono col tempo suo dedicato a quella radio lì e vedi che funziona tutto perfettamente. Perché tanto se sollevi da una parte o dall'altra c'è sempre quel fischiettino, ti fa l'innesto e ti trappa. Per toglierti quel difetto dovresti abbassare il mic gain, però sei troppo basso di radio. Aspetta che voglio provare quello che piace a te, l'SA, l'SBE con il Turner più 3. Sì, vabbè. Ok, no, ma qua non ci avrai mai questo segnale, non credo. Ok, facciamo un attimo in bianco però, se no qualcuno se vuole entrare. Avanti sul 10 ti vuole entrare. Nulla, vai Luca. Ebbene, non mi riuscivo. Tu sei Emanuele. E cosa? Ti sento più basso di prima, adesso sì, perché sei in mezzo al QRM. Ti sento di radio, però segnale non ce n'è, sei proprio basso qua. La radio è quasi un po' più di 2, però non è chiaro. Attenzione, binario 10. Avanti. 1, 2, 3 prova, 2, 3 prova radio. Sto provando l'SBE SA 2800 con un Turner più 3. E con cosa lo stai alimentando? Con un alimentatore della ZAG. Adesso sento un ronzio. Controllati le tensioni, sei tutto a posto. Ehi, adesso controllo. Ti sento un residuo di alternata. Ho vento le accese, cosa c'è? Garino, bene, cosa c'è? Cosa hai detto? Poco fa si sentiva un residuo di alternata, un ronzio. Sembrava un residuo di alternata, però non è detto, potevano essere anche delle ventole. Riprova a non parlare, manda solo portante. A quanti ventoli vai in quella stazione? È l'alimentatore switching, quello del K. Prova a parlare. 1-2-3-3-3-3 radio. No, è quello, è l'alimentatore del K che ha le ventole. Adesso sta andato bene. Vai Emanuele, tocca a te, avanti il mic. Non lo sento, sta parlando. No, non lo sento neanche io. Aspetta che arrivato sul K, anche se c'è quel problemino, però mi piace di più, scusatemi. Ah, questa radio è bellissima, Riccardi, è veramente bella. E cosa hai detto, Robè, scusa? Che questa radio è spettacolare, bellissima. Con che cosa stai utilizzando? Con che microfono? Starmi più 3, quello grigio. Questo è uno spettacolo la radio, è meglio dell'altra. L'altra spinge di più perché c'ha più potenza, ma come qualità questa è molto meglio. Babbo me lo dice, ma non mi piace tanto questo strumento così. Ciao, no, è la sua musica. Questo è un microfono che rende su quella radio. Quello che c'è d'altro non va bene, c'ha troppi difetti, hai visto, c'ha quel ritardo, c'ha problemi di impedenza, un sacco di roba. È comprensibile la radio, bella, però questa, se devo dare un punteggio, gli do un bel voto, quell'altra sufficienza. Ciao Robè, comunque glielo dico sempre a lui, parla con un microfono che è un piacere ascoltarti, non gracchiare o uscire male. Sì, no, non è che c'è male, però c'ha quel ritardino, come arriva probabilmente il picco del coso, della tensione, per eccitare l'amplificatore microfonico, ma risatura in quell'istante lì. Se non farlo saturare devi abbassare il mic gain molto basso, però la radio non c'è radio poi. Mentre con questa è bella, piena, corposa, ci sono tutte le tonalità come dal vivo, come naturale. L'altra va bene, però non è un granché, dai, questa spinge di più. Ma poi con l'altra deve fare tutta una serie di regolazioni che molte volte non combaciano, tocchi una cosa e ci sballa l'altra. Con questo parli più tranquillo, se vuoi il microfono, una volta che hai la tonalità giusta, lasci il volume di dov'è e parli tranquillo. A voi, a quanto è qua il MPG? L'ho messo a metà. Figurati, prova a salire ancora di più per curiosità. Adesso a 3/4, vedi un po' come sta uscendo. Una bomba, questo microfono, ecco, tanne sui baracchini non ce n'è. Allora, infatti io me lo ricordo quando ero ragazzo che avere uno di questi era il massimo, quindi, perché sapevo, c'era prima o poi c'era mio cugino che parlava anche lui al baracchino e aveva una radio stupenda, quindi mi ricordo, mi è rimasto impresso questo ricordo. No, ma c'era anche io il tanne sul pace e hanno sempre mandato la radio, adesso non ho voglia di attaccarlo, ma domani se ne ho voglia lo rimetto in sesto, la faccio funzionare, tanto devo solo commutare l'antenna. E mi hanno sempre detto che il patch con quel tunnel è una bomba. E sicuramente, allora questi nascono poi con questi apparecchi, quindi una volta che pure una buona antenna e un microfono come si deve, è già fatto. Assolutamente. Ok, di lì se due vuole, se riuscite a trovare un abbinamento dedicato con la radio, l'abbiamo provata quando è avanti ieri con Coso, e tu sai che stavo uscendo benissimo con il suo microfono di linea, dai. Avanti candeliere. Infatti li stiamo a vedere adesso, dai. Ciao Guagni, avanti. Buonasera Sergio, buonasera anche a Roberto. Sergio, a me ti è piaciuto quell'apparecchio? Quell'apparecchio sì, bello, sì, non male. Io l'ho visto, stavo per prendermelo, poi la verità mi ha bloccato il fatto che aveva pochi canali, capito? Poi io pensavo fosse almeno 23 canali, invece mi ha detto che era 16, però ho pensato sia a te e a Riccardino, e tra, magari a loro piace perché sono collezionisti, e gli ho telefonato per farglielo sapere. No, ma infatti così l'abbiamo preso più per figura, perché ci piace, poi le caratteristiche saranno quelle che sono. È un po' strano sia il wattaggio che il numero dei canali, però è bello da vedersi e quindi andrà a sommarsi a tutta l'altra ferraglia che abbiamo. Avanti Roberto. Dai, come coso, dai, che bello avere tanti belli apparati, belli messi in vetrina, ordinati, poi ti metti come tu io, quelli che riutilizzi te li metti vicino e gli altri ti fa una bella esposizione. Robert, l'hai visto lo Zodiac? Allora, non l'ho visto il loro, però lo conosco perché ce l'aveva a Capri quel baracchino. Vabbè. Comunque è molto bello, e io ho parlato col proprietario e mi è sembrata una persona molto seria. E mi ha detto che è tutto funzionante, compreso l'orologio, che di solito in quegli apparecchi l'orologio non funziona più perché gli ingranaggi con l'andare del tempo si usurano e non funziona. Invece c'è questo, funziona anche l'orologio, tutto. Oh, già è bello anche con l'orologio. Il coso, il pace mio c'ha l'orologio, però c'è la digitale. Quello invece c'è l'analogico, l'ancetto. Sì, infatti, il modello mi ricorda molto quando ero ragazzo, mi ero comprato un Inuit che più o meno gli assomigliava, ma era spettacolare. Allora, avere l'orologio nella stazione era qualcosa di eccezionale. Che già lo so, però poi alla fine, lo sai cos'è? Quando spegni per dare memorie, quello che c'ho io digitale, come spegni tutti i posti d'ora, c'è anche il timer, c'è l'accensione, quello del patch, cioè ti puoi impostare l'accensione dall'apparecchio, metti alle 10, alle 10 del mattino o alle 23 quando vuoi, se lo puoi fare accendere, che poi è una grande fesseria, è un'opzione, dai, però io molte volte per coso lo mettevo, lo regolavo l'orologio, poi spegnevo, ritornavo e perdeva tutto. Sì, ma all'epoca era qualcosa di incredibile, era come quei primi orologi, non so se ti ricordi, quelli che avevano il quadrante nero per vedere l'orario, dovevi schiacciare, della Tex of Instruments, mi ricordo. C'avevo un paio di quegli orologi, c'ho quello tutto nero e poi quello tutto dorato, e quindi la cosa, addio di luminosi sono quei proprio i primi digitali che hanno fatto. La R3000 c'ha l'orologio e appena accendi l'apparecchio parte il cronometro, nel senso ti dice da quanto sei acceso, come lo accendi poi. Beh, quell'orologio della Texas Instrument era un modo per non far scroccare l'orario agli altri, così almeno non guardavano l'orario. Sì, esatto, era una novità quella che ti preservava da chi voleva sbirciare che ore sono senza chiedertelo. E prima non ce l'avevano tutti gli orologi, allora tutti c'erano il cellulare, che ora sono anche ragazzini, ma prima trovare i ragazzi con l'orologio non era, dovevi fare la crisi ma per farti regalare l'orologio. Io ho l'ecodrive, non metto più batterie, meno male. No, io senza l'orologio non mi sento vuoto, spuglio, sempre, io devo sempre averlo al posto l'orologio. Pure io. Anche perché il mio lavoro era basato tutto su appuntamenti, quindi dovevi stare sempre con l'orologio in mano. Sì, allora io già lo so, già ve l'ho detto, ne ho tantissimi orologi, però quello che uso più di tutti è quello più scaccino, l'orologio più economico del mondo, il Casio, quello nero, leggero leggero, che pesa 10 grammi, tutto in plastica, che passa ai metal detector, che usano tutti i terroristi per fare gli attentati, che ho visto un servizio su un video, tutti i terroristi usano quelli perché sono tutti in plastica, hanno solo il fondello in una copertura in acciaio, tutto il resto è plastica, leggerissimo. E il metal detector non lo individuo. No, io ho visto questo per la Citizen, sul sito della Citizen, questo qua che non c'ha né batteria, né si raccorda, né automatico, e a pannelli solari praticamente si ricarica con la luce del sole. Sì, sì, lo conosco, quelli Perpetual mi sembra che si chiama, che sono radiocontrollati, poi non hai problemi di fare regolazione e tutto, sono precisissimi, anche se se lo fanno pagare un pochettino, no, questo è un Casio, il più economico Casio che c'è, la versione che costa, mi pare, vabbè, se lo fanno pagare lo stesso, dai cinesi lo paghi sui 10-12 euro, però di lì non costa, mi pare, 30-34 euro, ma ne ha cambiato 4-5, sono indistruttibili, però col tempo, col lavoro che faccio io, con quei cinturini, siccome non si possono sostituire, sono integrati nella cassa, si marciscono e poi si rompono, muovi oggi e muovi domani, ne ho cambiato 4 o 5 di quegli orologi, però il meccanismo è sempre perfetto, perché hanno le batterie, durano 5 anni, non consuma niente, non ha grosse cose fatte che creano consumi. E ne ho ordinato uno, ve lo sto aspettando, l'ho ordinato quando è? A febbraio, mi ha detto consegna a giugno un orologio, ne avevo altri due, però uno si è rotto il cinturino lo stesso, quelli col termometro, barometro, bussola, che hanno tutte quelle funzioni lì, l'ho ordinato, dice forse arriva a giugno, speriamo bene, lo sto aspettando. Io invece ho un Sector che costa 370 euro, però ogni volta che devo cambiare la batteria mi devo fare la prova dell'acqua e pago 80 euro ogni volta, sì, quanto ne vale la pena. Basta, non entrarci in acqua, non ne fai, non te ne togli di dubbi. Se lo usi, io sul 1000 metri, all'epoca era il più profondo insieme al Caribbean della Philips Watch, testato a 100 bar, 100 atmosfere, in acqua io non l'ho mai fatto entrare, ed è un orologio che tiene 1000 metri di profondità, perché è un orologio prezioso, non mi metto a toccare, perché teoricamente tu ogni volta cambi la batteria devi sostituire anche le guarnizioni, e chi è che te le cambia le guarnizioni? Per avere le prestazioni quelle dichiarate dei 1000 metri, ma è una cassa a vetro zaffio, una bestia di orologio, però quello lo uso qualche volta così per fare il fighetto, sono quegli orologi subacquei professionali. Sì, mi cambia quello della Rolex a me, perché io l'ho comprato lì dove vendono i Rolex al corso, però ogni volta devi aspettare anche 2 settimane prima di cambiartelo, lo mandano non so dove, ti cambiano la guarnizione, cosa, se no ti attracco anche se ti lavi le mani, se fai come dici tu, perché una volta mi sono lavato le mani mentre attacco, quindi non fa usarlo, me lo rubino. Allora sono le guarnizioni mezzo pizzicate, perché ci sono degli O-ring sottili, ci sono da tutte e due le parti, non so quanto sia, quanta atmosfera sia, però se tu poi non metti un grasso particolare, quando stringi la pizzichi e lì è per forza che entra l'acqua, è normale, cioè c'è la coronavite, c'è sotto. Sì, sì, sì. È un crono, io sono appassionato di crono scuba. Sì, ho detto la corona, la cassa, la vita, la corona, non c'entra niente, ho detto una fesseria. Però, mentre Filippo Uo c'era uno dei pochissimi orologi che non ha fondello sotto, e per aprirlo, per cambiare la batteria, gli ultimi erano fatti erano al 4, perché gli altri caribbean erano tutti a cosa, a movimento automatico, devi togliere il vetro. Ma pesa, quell'orologio pesa, adesso non voglio dire una fesseria, e pare 580 grammi, è un peso assurdo, è un blocco di acciaio presoffuso, col vetro zaffiro ad alto spessore, quello è uno dei suoi primi orologi, quelli che usava Maiorca, facevano Custo, Maiorca, tutti i grandi profondisti, vabbè, Custo non c'entra niente, però lui li sponsorizzava, erano i primi orologi di subacquei a 1000 metri, e poi è uscito il Manta della Brill subito dopo. Vabbè, io ce l'ho fermo adesso, quello lì, quando mi decido lo devo portare al corso e farglielo fare, perché è un peccato, è un bellissimo orologio, a me piacciono gli orologi proprio belli, i crono mi piacciono tantissimo, anche se poi cronografo non li uso, è solo per bellezza. Avanti, sì. Stavo ascoltando, anche quella è una passione che poi se ti prende è un po' dolorosa, perché anche lì devi aprire il portafoglio, e quindi è un po' impegnativa, però sono belli gli orologi, sono una cosa bellissima, soprattutto quelli particolari dove c'è precisione, c'è tecnologia. Ti volevo chiedere, vabbè, a proposito di un'altra informazione, che nel ricevitore, quando c'è quella caratteristica, io parlo di ricevitore a valvole, quando scivola, da che cosa è dovuto questo scivolamento di segnale? Ma stai parlando di te o stai parlando? Sì, esatto. Ma quando l'hai fatto le prove tu? Ma cosa, ti dita la frequenza o che cosa? O feeding, cioè fading, si abbassa il livello del segnale? Ma non è che si abbassa, sembra quasi che si sposti di qualche ora. Cioè tu devi seguire, lì no, lì c'è un quarto per stabilizzare la frequenza, quella è una cosa un po' più delicata, quella fatto lì. Ma sul trio stai parlando, cioè tu ti sintonizzi sulla stazione e si sposta, cioè la pelle la devi risintonizzare. Esatto, la devo ricentrare di nuovo. Quello non è uno scherzetto, dai. Lì va a vedere, c'è tutto il circuito di coso, di lì se non c'è stabilità non è semplice, anche se quei circuiti sono abbastanza semplici, un qualunque elettrotecnico